Di nuovo in studio con Essere e Avere c'è un evento che ogni anno in Italia racconta un modo nuovo di fare impresa, sostenibile a livello sociale e ambientale, un modello che coniuga sviluppo economico e impegno sociale. È il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale che il 4 e 5 ottobre prossimi torna per il quarto anno all'Università Bocconi di Milano. Un salone che guarda alle imprese di domani, lo abbiamo chiesto a Rossella Sobrero di Coinetica, il gruppo promotore del salone. Io spero che siano già un po' le imprese di oggi, perché devo dire che in questi ultimi anni molte più organizzazioni hanno modificato anche le proprie strategie e hanno inserito la sostenibilità come valore forte, come valore strategico, non come, diciamo, attività tattica. Questo quindi ci fa sperare che in futuro le imprese ragionino sempre di più in questo modo. Oggi si è capito che per essere più competitivi bisogna essere attenti al cambiamento, ma anche più disponibili a lavorare per la coesione sociale, sia interna che esterna, cioè rafforzare il senso di appartenenza, per esempio, dei dipendenti, ma avere una buona relazione anche con i diversi stakeholder, dalle comunità locali dove l'impresa opera a tutti gli altri soggetti che sono con l'impresa, diciamo, interessati a fare un discorso di sviluppo sostenibile. Quanto ha influito nella direzione che abbiamo appena raccontato la spinta cosiddetta dal basso, dai cittadini, dai consumatori, dalle comunità locali? Ma secondo noi moltissimo. Perché è chiaro che l'impresa che riceve dai messaggi dal consumatore ha bisogno di adottare delle politiche diverse, quindi un consumatore attento, direi anche un po' diffidente, perché non si fida più dei messaggi che così le vengono inviati tout court dall'impresa, però è anche più disponibile ad premiare le imprese che adottano strategie sostenibili, quindi che per esempio modificano il proprio processo produttivo, sono più attenti ai diritti umani, migliorano diciamo l'attività nei confronti dei loro collaboratori. Questo significa che le imprese che possono appunto dimostrare, non solo dichiarare, dimostrare di aver attuato questo genere di politiche vengono poi premiate dai consumatori. Il mondo dell'innovazione sociale è sempre più collegato al mondo dell'innovazione tout court, perché molte delle start-up che nascono da sensibilità millennials, chiamiamole così, sono molto allineate con queste istanze. Sì, la spinta viene in particolare dai giovani, questo naturalmente è qualcosa che ci fa ben sperare per un futuro migliore. Oggi i giovani sono naturalmente più attenti anche perché hanno una facilità di accesso all'informazione che fino a qualche anno fa forse era impensabile, però sono anche molto più critici. I giovani pretendono dei comportamenti, ma anche dei servizi e dei prodotti che tengano conto della dimensione sociale e ambientale, e quindi le aziende si devono adeguare. Io sono particolarmente contenta di poter dire che abbiamo creato una rete che si chiama CSR Netted, di giovani che sono impegnati, che sono appassionati di sostenibilità e che saranno molto presenti anche in queste due giornate del Salone, ma non solo da spettatori passivi, ma come protagonisti attivi, perché saranno tra i relatori di una serie di tanti eventi in programma. Focus sui trend. Prendete un oggetto tecnologico del passato, uno di quelli caduti in disuso perché superati, però radicati nella memoria di molti di noi. Metteteci dentro tutto il meglio dell'innovazione attuale e otterrete un prodotto retro tech, una tendenza che non smette di incuriosire e di lanciare nuove proposte sul mercato. Ne parliamo con Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo, bentrovato. Buonasera e ben ritrovati i nostri ascoltatori. Allora, partirei da un oggetto che è un po' il simbolo degli anni Ottanta, il Walkman, che sta per tornare in versione high-tech. Sì, infatti la Sony, dopo 30 anni di onorata carriera, ha interrotto la produzione del Walkman nel 2010, ma dopo 6 anni la casa giapponese, in occasione dell'IFA di Berlino, ha presentato il suo erede, trasformandolo in un oggetto per pochi eletti. Parliamo di un lettore audio della serie Signature, che si caratterizza per la scocca in rame rivestita d'oro e di una memoria interna di ben 256 giga. Il lettore offre il Bluetooth, la NFC, la doppia uscita jack da 3,5 mm per le cuffie e la possibilità di collegarlo ad un amplificatore con un'uscita dedicata. Questa combinazione di materiali e di caratteristiche porta però il prezzo di questo oggetto a 3.300 euro. Ma non bisogna spaventarsi, perché esiste una versione più economica con una scocca in alluminio, con una memoria di dimensioni dimezzate a 128 giga. Il prezzo scende di tanto, comunque sono necessari 1.200 euro per portarselo a casa. Tra l'altro, Carlo, è destinato comunque a un uso diverso, perché è pesante, non si può correre con questo Walkman. No, è pesante, in più per avere godere appieno delle sue caratteristiche bisognerebbe abbinare un paio di cuffie abbastanza pesanti del costo di 2.200 euro in un amplificatore che ne costa altri 2.000. Un oggettino nostalgico high tech, però insomma, come hai detto, per pochi eletti. Questa tendenza dà il meglio di sé nei videogiochi. Nel mondo dei videogiochi il retro non ha mai perso il suo fascino, sono state tante anche in passato le riproposizioni quantomeno di vecchi giochi. Ce lo testimonia oggi la riproposizione da parte di Nintendo della console NES degli anni 80, che uscirà col nome di NES Classic Edition in versione miniaturizzata nei prossimi mesi in Europa al prezzo di 60 euro. Ricordiamolo, era proprio quella scatoletta, la prima console da casa uscita, come dicevi, negli anni 80, un successo enorme fu allora. Esatto, allora Nintendo prova a riproporla con un prezzo nella versione miniaturizzata a 60 euro, con 30 giochi a bordo, tra cui Super Mario, Donkey Kong e altri giochi. Ma anche per la rivale Sega ci sono delle novità, perché per festeggiare il 25esimo compleanno del riccio Sonic verrà riproposta la Mega Drive, che di giochi a bordo ne avrà quasi 80. E di questa è prevista anche una versione portatile. Queste retro console di Sega vengono prodotte da un'azienda cinese, la ATA Games, che aveva proposto già in passato la riedizione dell'Atari 2006. Queste console potranno utilizzare le cartucce originali dell'epoca, per i fortunati che hanno avuto l'accortezza di non disfarsene prima. Quindi anche le cartucce, i titoli di una volta che tornano ad avere successo in pratica? Sì, e in questa riproposizione non viene dimenticato l'onnipresente smartphone, per cui per esempio la HyperKin presenta una periferica che è in grado di trasformare gli smartphone Android in Game Boy. Basta inserire il telefono su questa basetta e si possono avere i controlli della console Game Boy ed uno slot per l'inserimento delle cartucce originali. Beh, a molti, a me per prima, sarà venuta voglia di andare in cantina ad aprire gli scatoloni, in pratica. Mi sembra un ottimo consiglio, Maria Luisa, perché uno studio di eBay in Inghilterra ha rilevato che nel mese di giugno i prezzi del Game Boy e delle Nintendo 64 si sono quintuplicati. Per non parlare poi ovviamente del Pokémon originale, che dopo il lancio di Pokémon Go a luglio ha visto il suo prezzo aumentare di 10 volte. Ma tra gli oggetti del desiderio retro tech, al di là dei videogiochi, anche un vecchio Walkman di cui parlavamo prima vale adesso 80 euro. E gli appassionati di fotografia possono sborsare fino a 240 euro per una vecchia Polaroid, mentre per chi ha conservato un Nokia 8110 come quello comparso per la prima volta nel film Matrix può cercare di venderlo a circa 50 euro. Grazie Carlo Ricciardi, alla prossima. E a voi, alla prossima. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite fisso, ci ha raggiunto in studio come sempre per la riflessione finale il sociologo Francesco Moracci. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buonasera ai radioascoltatori. Il tuo spunto di questa sera. Il mio spunto in una rubrica che consumautore non poteva non essere Muri d'autore, che è una bellissima esperienza che ho conosciuto in questi giorni a Salerno, proposto dalla Fondazione Alfonso Gatto. Tutti noi conosciamo i graffiti, gli artisti di strada, città che sempre più creano addirittura dei quartieri dove si visitano queste opere di artisti, ma per la prima volta invece è possibile vivere una situazione poetica, quindi brani scelti da poeti che in alcuni casi erano colleghi e amici di Alfonso Gatto, in altri casi invece sono scelti da Filippo Trotta, che è il curatore e fondatore della Fondazione Alfonso Gatto, e vengono scritti e dipinti sui muri, e questo è avvenuto a Salerno, nella città vecchia di Salerno, con un effetto, devo dire, straordinario. Vi consiglio di andarla a guardare anche in rete. Mettiamo le immagini in video sulla nostra pagina Facebook, perché è un progetto veramente bellissimo, un progetto che in certo qual modo, Francesco, rilancia anche il ruolo sociale della poesia come strumento di riqualificazione urbana in questo caso. Assolutamente, io poi ho incontrato le persone che vivono in questo quartiere, che è un quartiere anche molto popolare di Salerno, che raccontano di non solo delle giornate che sono state soprattutto a luglio di quest'anno, in cui sono arrivati da tutto il mondo artisti e per alcune settimane hanno appunto dipinto, decorato e scritto questi brani, ma hanno anche oggi l'orgoglio di essere ad esempio sui siti web di tutto il mondo, ecco, quindi un riappropriarsi del territorio usando la parola poetica. Alla street art guarda da tempo e tuttora lo fa con molto interesse tutto il mondo dei consumi, sia in termini di comunicazione che di ispirazione. Tu del resto da una vita professionalmente, Francesco, ci insegni a cogliere in termini di anticipazione, di trend, i segnali che arrivano dalla strada. Ecco, che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa in questi anni? Allora, da un lato, in questa esperienza ad esempio emerge la forza della parola e non solo dell'immagine. Quindi questo è un aspetto che ci dice anche che la società dell'immagine ormai è alle nostre spalle, c'è una società, diciamo, della cultura in senso più allargato, e l'altra cosa è che ormai la cultura alta e quella bassa si incontrano per fortuna nella vita delle persone. Grazie a Francesco Moracci, grazie a Valeria Bernardi in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.